Sigodone, bibidone di PC, Dream Team, alti come un aquilone, muovo fili, mangia fuoco, santa madonna prega per loro, razza bastarda come guardia allo stadio. Stati in cucina, guacamole avvocato. Non parlo con nessuno, chiamatemi un avvocato. Fumo kush, fumo mango, scarpe sporche di sangue. Negri a Roma come Django, la mia cinta è Ferragamo. Cavallo nero, Ferrari, piovono soldi dal cielo. Troia si sta bagnando. Dar Polo gang, siamo troppo, facci spazio. Non c'è aria, non c'è ossigeno. Lasciamo stronzi senza acqua e né cibo. Andiamo pazzo per sti soldi, passo dal mio amico, dagli soldi in mano. Lei vuole uscire ma non mi sposto dal rione. Tiro giù il passamontagna, leggo questo infame, non lo sguardo basso. Preciso il collo, Vergine Maria, piena di grazia, lacrime sul volto, piena di sangue. Dal qua e lascio il fumo, cala quando passo. Tu gioielliere dovrebbe stare in imbarazzo. Sai che vengo dal fare solo furti nel caso. Negro bastardo, rotolai sul mio cazzo. Collane d'oro bianco, voglio lasciare banconote in aria. Ne do uno e vedo tutto scatto. Sassi sopra la carta spagnola, fumo nelle guance, plastica che brucia. Parix baby, sai che ho quel fuoco. DPG siamo drag fashion, stiamo sulle droghe, vestiti designer. Io e i miei amici siamo schiavizzati, chiedo scusa soltanto a mia madre. La tua tipa continua a chiamarmi dentro il box, cioccolato e ce la ripaghi.